E vabbè. Ma io faccio la passione, dai. No, se continua questo passo me ne basta la gana a vero. Vedi tu. Tocca, ti tocca. Capazzo. Vabbè. Diciamo che... Cioè, spendere tanti soldi anche per solo la 27 non è che sia tanto bello, cioè, perché sì, è bello perché le radio piacciono, averle, a vedere queste base tutte belle composte, però alla fine noi come CB non ne facciamo niente di questa roba qua, e poi basta una radio buona, come si deve, una e basta, tanto ne usi una solo, metodi, ne usi, del resto non ne fai niente, le tieni solo ferme e ogni tanto ne fai girare una, ma non, io non penso che riusciamo a contentarle tutte le radio, se ne prendi tante, però una basta e avanza, io penso così, la penso, infatti io stesso me ne sono tenuta una e basta, non ne comprerò mai ancora un'altra. Ma guarda, ti dirò, se prendo un altro apparato sì, è che spendere una certa cifra per bellezza. Mi sono fatto mobile che voglio completarlo di radio, ma più che altro per bellezza. Persone che vengono a trovarmi che non sanno zero della frequenza e vedono tutti questi apparati belli così chiusi, eccetera. A me piace. Anche se entrerò poco, però come funzionano. Perché io ti posso dire una cosa, sono stato molti, ma molti anni fermo. Non avevo più niente, zero, tutto venduto. Mi ero rotto le palle. E dopo tantissimo tempo, oltre i 10 anni, per me. Adesso mi faccio un po' di pressione, vi posso dire che in poco tempo ho roba che persone ci mettono un bel po' per fare tutta questa roba, ma questo è dovuto perché ho molti soldi, tutto qua. Ah beh, quello beato te, che ne hai tanti, allora puoi fare quello che vuoi, beato te. Noi invece che siamo poveri, che ne abbiamo pochi, che viviamo... non ti dico dalla giornata, però quasi, ce ne teniamo una bella tranquilla. Non è che sono ricco, sto bene, a parte il lavoro che faccio, che sono assicurato alla trova di pensione, ho anche un'altra pensione a parte, ho ritirato anche soldi dell'assicurazione, quindi sto tenendo a parte qualche cosa in piccolo, capito? Dovesse capitare la guerra, sono tranquillo. I soldi finiscono ogni turno, ne ho avuto anche io tanti, da voi sono finiti. Già, tu non ci credi, stanno sempre aumentando, cazzo, invece di diminuire. Sto sempre spendendo, cazzo, non finire mai. Ascolti, do il numero del conto mio e mi fai qua c'è il credito in banca. Sì, fai da bravo, non resti a me. Una cambassola me l'ha detto, dammi il PIN, la carta, poi ci penso io. Io ti dico che quando lavoravo stavo benissimo, non bene, arrivavo a prendere più di 3.000 euro al mese, solo che adesso non c'ho più lo stipendio, quindi sto vivendo solo la pensione. Ma io tra stipendio e pensione mi manca solo la tegalina, guarda, scusi che mi sono tratti, ho avuto un piccolo incidente, non mi sono fatto granché, però con la macchina dell'azienda, quindi altri soldi. Viene che fa la posta, c'è un Carrefour, un Abitocca, anche di una... Insomma, tiene a te, ben, ho sentito. E mi ha da te. E gli ho detto, se non hai gruppi, non vi salvi in banca da te. Poi ero conto mio, altro ce lo viene. E l'ho detto lì. E ben venga, lo sì. Oia. Fra, e noi siamo poveracci, Sì, diciamo, poveracci, io non mi posso lamentare, a dire la verità, nella vita non mi posso lamentare, perché ho sempre lavorato, sono stato bene anche al lavoro, anche se ho dovuto sgamare, ma un bel, faticare parecchio, però poi alla fine sono arrivati anche i risultati. Non piglio assai, però è tanto di vivere, bugamine a che fici a viraccio, io buco. Non ne ho come Tonino, però un po' di meno. Ma guarda, sinceramente, Tiro, io ho visto alcune cose, sono andato negozio, l'ho visto la comprata. Ho preso quella troncatrice per legno, l'ho vista da Brico, ma quando mi sono visto la sinistra innamorata, l'ho comprata. Sono andato alla Libia, c'era quelle offerte della circolare per legno, bella, grande, non mi aspettavo che era così grande. 100 c'erano vero, ho svegliato e me l'ho separata. E infatti ci sono facendo dei mobiletti che mi servono, capito? Quando vedo una cosa io vado prima alla coppa. Quindi non sto lì a pensare a... Non sono tizio, io l'economia la faccio andare avanti, pure per Dio. Non mi manca niente, la verità, io sto bene. Posso dire che sto bene. Forse 6-7 anni fa stavo un pochettino normale, non male perché ho sempre lavorato, perché io sono ho avuto sempre. Ma io da 5-6 anni a questa parte, grazie a Dio, non mi lamento, dai. Non sono ingordo, non sono un tipo che mi vanto perché non mi ha opportunità, io sto bene e basta. Mi serve una cosa, me la compro. Non sto lì a finanziare, non compro niente perché tanto si mangia più di là in testi che altri. Tutto qua. Ma Popurio non è giusto questo. Mi si è rotto il ceppo io, ma non è questa cosa. Sono qua, non ti preoccupare, non sono fuggito. Beh, che volta di vita è, o si è perso il cammino, boh? Non ho capito, se è, Si è perso il cammino questa foto? No, non è male con la foto, no, assolutamente. Quindi, ce l'ho qua, ho fatto il video e basta, poi se domani mattina lo manderò e sarà bien in Napoli. Fabrice, sì. Ma adesso Antonello me lo puoi mandare? Difficoltà a sentire, anche perché sto rischiando, cos'è questa cosa? Vedi, ho difficoltà a sentire chi è più lontano, vedi già, perciò rimango a sentire quello che riesco a capire dai discorsi di un solito. Vabbè, lo metto su. Antonello, c'è proprio, diciamo, il peccato nel ferme, Fabio, così è. A quanto ho capito io. No, è che per ascoltare quelli più lontani uso la stazione, però la stazione non c'ha le FM, perciò quelli più lontani non li sento in FM, capito? Ah, vabbè, come un discorso diverso, vabbè, ho capito. Antone, dimmi. Ma adesso me la puoi mandare? Dimmi, spiegami un secondo, siccome già devo mandare un video casa per un coso, per vendere l'apparecchio, cosa del genere, dimmi, tu lì. Ti ho chiesto se mi puoi mandare il video, una foto di quell'apparato che c'è tu. Cazzo, una foto, vieni a casa e te lo guardi, che cazzo ti ho mandato la foto. Vieni, andate a casa e te lo guardi, lo usi anche, non sono lato. Boh. 500 euro guadagno di più. Non sai quanto costa questo qua, sì? 700 euro è pagato Marco Condor. Quindi 500 euro. Lo sto vendendo io, che costa 1280 euro comprarlo nuovo, quindi figurati tu, l'otto 57D, basta quella su internet, non c'è problema per quello, fatti i conti, non so. Antone, sei un mincione, cazzo, io ti ho chiesto una foto a vederlo, poi giustamente se mi attira che sto comodo con me, domani vengo a casa tua e me la vedo, me lo video, me lo compareggio. Cazzo, per mandarmi una foto, dammi un'idea almeno. Boh. Ma se mi da casa, cazzo Luigi, scusa, cosa? Ti mando una foto a fare. Vieni da casa domani, non te lo rubi. Usi, fai quello che vuoi, poi decidi tu, 500 euro. È regalato, se non è regalato, è regalato. Quindi. Cazzo, guarda, ma vengo adesso con la picchettiola in mano, Quindi uno di tu, non lo so, chi mi chiama avanti? Dicendogli la sigla, si fa un'idea, no, quando lo vede? 857D. Ah, era il culo, Antonè! Cazzo, boh, guarda. Antonè, che tu mi ripeti a me 500 euro, 500 euro. Io se vuoi domani vado e spendo 3.000 euro, che in contante mie, non mi ha fatto un cazzo. Mamma mia! Che discorsi sono? Ascolta, parla con te di Dio. Ascolta, è l'otto 57D. Lo vuoi 500 euro, vieni da ogni attento e te lo prendi. Cazzo! Non è che devo fare la fotografia, mi la fai la propria e te lo prendi a un certo punto. Sei qua, non è che sei cazzo in Sicilia o cosa del genere, capito? Il discorso è quello, Tony. Se ti piace bene, se non ti piace pazienza, non succede nulla, no? Mica dobbiamo incazzare, no? Ma scusa, io devo perdere tempo, cioè a venire a casa tua, cioè innanzitutto vuoi darmi un'idea adesso, a vederlo più o meno, giustamente se mi attira subito, domani vengo te lo compro, ragionamenti solo, però stai girando, boh, Antonè, fai che ci metti in bar di piazza. Non vuoi vendere? Ma non sto girando niente, la verità, lo sto usando adesso, lo sto usando adesso, quella parecchio lì, hai capito? Il discorso è quello. L'ho attaccata mezz'ora fa, mica sto usando barattino normale, sto usando quello lì, forse non ho capito niente. Dimmi la sigla, dai che sono su internet a guardarlo, dai. Controlla, 857D, guardatelo tu, bene, quanto costa? Su AliExpress, su qualsiasi sito, costa 1000 e passa euro, sono 500 euro, è regalato. A te, a lui non gli interessa quello che costa nuovo, gli interessa di vederlo perché non l'ha mai visto. Sei proprio cazzo, la scatola l'ho provato adesso, due volte ho provato la vita, due, con te. Un mese e mezzo fa, già lo sai, quindi. E nuovo fiammante, cosa gli passa lo spray, tanto quello per fare luce, come si fanno cose così. Non le passa la roba lì. Antonio, cos'è? Iaeso? Era 857D, Iaeso, sì. Allora, Iaeso, questo è un FT897D. Cerco l'altro, se... 857, che cazzo è 897? 857 D, ti ho detto. 857 D. Fanno già 869 euro. Ah, ecco, visto, Ha detto questa 1000 passa euro, se conto di bene, comunque sia. Non lo so io. Cos'è il veicolare? L'unico... A questo che quando banda veicolare, sì, bravo, ci si è arrivato. Piccolino, cioè dovrebbe essere stato nel base, ma piccolino, 857D. Cosa c'ha lo svizzere arancione? Ci si è arrivato, sì. 869 euro. Secondo te, cosa lo vendo? 700 euro lo vendo. Ah, ma ti so già che tu sei da poco fa, 1000 passa euro. Tanto manda, fammi una foto, fammelo vedere, ma a me non mi devo un'idea. No, vieni qua, te lo guardi, non lo so. Ma tu sei allucinato la cosa, se tu hai visto che quanto costa, c'è anche la foto, scusami. Ho visto la foto, non è che mi chiedi di distanza. Cosa cambia? Sono uguali, non ho capito. Antone, ma se vuole vedere la foto del tuo, perché non gliela puoi far vedere? Io mando la foto del mio. Sì, guarda, è quello che stavo vendendo, scusa che. Il cazzo mando la foto del mio. Sì. Sono precisi. Non cambia nulla, no? Io voglio vedere una cosa, Antone. Faccio piccoli sì. E uno mi dice a me che non lo conosce, me la fa una foto, mi dovrei pronti, faccio la fotografia, gliela mando, non c'è nessun problema di fare la foto. E per forza uno mi piglia la macchina, vieni a casa tua e chiede tutta l'altra parte della città. Buono, Antone. Anch'io domani mattina sto facendo una cosa qua, devo fare questi lavori. Oh, Santo Antonio mio, tu non hai già amato, non hai già visto. Antone, c'ha ragione, qua io ho ragione perché, capita, se uno non ha mai visto quella radio lì e la vuole vedere tutto quanto. Guarda, io non ho neanche cercato a suite perché la conosco già, non per altro, perché ce l'ho avanti. Bocciato come commerciante, Antone. Guarda, a un certo punto non so cosa devo fare. Facciamo così allora, non la vendo più e la pigliate in culo. A un certo punto io ce l'ho qua a casa, chi la vuole avere se la prende in contanti, solanti e basta. La sto usando io, è accesa, c'è su eBay, la verità, no? Costa 1000 passa euro. Quindi è uguale, non è che cambia molto la verità, comunque sia. E forse va bene, sto usando io adesso, non ho capito, ti ho fatto la fotografia e te la mando. Tony, solo quello sto usando me, la verità, non è che sia un caldare, non ho capito. Fai un selfie di me, la fotografia tu con apparecchi nei romani. Ah sì, perché non volevo entrare su internet, adesso che sono andato su di me, ho guardato. Ci voleva molto, cazzo, poi no, manco... Cosa, gli togli la polvere, ragazzi, per la polvere. Il mio rumore, il telefono ce l'hai, va a mangiare su WhatsApp. Lei fa un tanto grande, ma non sa. Che non c'è un numero, se no ne avrei mandato io la foto. Allora, 5-7D comunque è... Boh. La grande radio è un veicolare 800 massimo 890 euro e boh. E per 500 euro secondo te è regalato o no? No, non è regalato, è una radio usata, non è di seconda mano, non è che sia tanto regalata 500 euro. Dovresti dare la vera metà, a parte che è scatolata. Non l'ho mai usata, se no due volte, non di più. Sì, altamente, però stai facendo delle... Cioè, stai facendo delle cose che non attaccano né a muro, non metti di lui, no, né a muro né a Gianna. Ti ha chiesto solo, perché lui magari era interessato di comprarsi la tua radio, di mandargli la foto com'era e vederla, almeno, la tua, non quella in... su internet, che in internet è una radio, la noi è un'altra, anche se precisa. No, è quello su internet, proprio la radio, il bello è quello. Ah, tu puoi far vedere una radio tutta graffiata, tutta messa male, con una radio bella. Ma non è graffiata la mia è nuova, non hai capito, nuova di pacca, in scatolata è tutto, non graffiata, il discorso è quello. Vabbè, Antonello, lo sai tu questo, ma non lo sa l'acquirente, non lo sa. E purtroppo è così, boh, cosa vuoi che ti dica? Antonello, cosa vuoi che ti dica? Vedi tu cosa vuoi fare, se la vuoi vendere, se non la vuoi vendere. Se avevi l'acquirente per le mani, mi sa che te l'hai perso. Avanti Gianni, doppio rum. Oh, Antonio, a me lo sai cosa mi è successo l'anno scorso, perché prendevo stipendio e pensione, ho raggiunto... il praticamente ho superato il reddito e mi hanno mandato a pagare 900 euro al mese, 940 euro al mese, più un mese mi hanno preso tutto lo stipendio. Quanto cavolo hai superato? Io sono arrivato a 33.000 euro all'anno lordi. Li ho superati, quindi mi sono trovato, cioè praticamente prima di ritirarti da voi ti incasinano, la magagna loro. Non ho dovuto pagare, come? Io ne sto pagando ogni mese del tasso. Giustamente perché arrivo a progredito là. Però giustamente sto bene perché ho altri introiti, diciamo, quello che mi succede, qualche incidente, quello che mi tocca la macchina, sono di più che entrano. Quindi manco me ne accorgo. E lo sai che purtroppo è così, se la macchina di rialzo è la macchina di bicchiere. Casino, poi ti ripiazzi una volta, fate quello. No, tu dici che non puoi pagare solo una volta e te le fai riattizzare e te le riattizzano. Oramai ci sono pagati già, solo che un mese me ne ha rinviato tutto lo stipendio, 1.400 euro, 1.480, una cosa del genere. Meno male che io ho sempre un fondo, ma lo sicuro, non me ne succedono queste cose, ma dovesse capitare, non c'è mai nella vita, capito? Sono sempre... un posto dove mi posso mantenere bene. Vabbè, anche io ce l'ho il fondo, non sarà chissà che cosa, ma ce l'ho anche io. Beh, Franco. Capatoni, non sono tutti così, no? C'è gente che sta peggio. Diciamo che quella gente, quando deve prendere, prende, e prende tutto in un colpo. Quando deve dare, che li dà a pezzi a pezzi. E allora, guarda, io prima stavo cercando un baracchino che sono in pista, già mi stavo usando per lui, ma dovevo vedere il tuo, no, la gira che ti gira, che ti gira, che ti gira, da Cagliari, non so già che poco, l'uomo mi ha dato il Liban, mi ha dato, gli ho fatto modifico, e mi è arrivato, bello, perfetto, nuovo nuovo. Io sono qua, dimmi tutto, guarda, a un certo punto le palle piene stasera, cazzata, si muova e tutto il resto veramente le palle piene, perché non posso dire che si faccia un apparecchio, questo è vecchio e cosa del genere, quando non è assolutamente vero, adesso sono i quelli pieni di queste cose di cazzate che raccontano. Quindi a un certo punto, comunque, chi vuole l'apparecchio mio, 500 euro se lo porta via, se no se la piglia in culo e fa fanculo a un certo punto, basta, io le balle piene. No, ascolta, aspettate un attimo, avete parlato in due, ho sentito solo vaffanculo e 500 euro, no? Questa è la cosa, ma questo amico sta apparecchio l'ho visto, praticamente potevo non vederlo perché era dentro la scatola, fatevi il gonti. Poi ascolta, fammi un favore, salutami chi non mi sente, salutami un po' la ruota perché io ho smesso di sentire qua di fondo, eccetera, non sento che più lontano. Questi saluti a tutti, Antonè, e poi tu a tutti i dindi, già hanno saputo, già hanno... Sì, che se lo vogliono vengono qui su di se lo portano via. Quasi quasi me lo prendo io, sì. Perché mi si è guasciato la gamba che hanno fatto un Antonello? Appunto per quello, quindi quello vuole si è portato via, la fa culo, allora fare cazzo voi dei coglioni, cazzo di discussioni, cose del genere, basta, non è bello veramente piena di questa storia. E già l'altro giorno questa storia qua attaccava a me, basta, ne ho le balle veramente piene. Quindi a un certo punto, quindi, faccio il cazzo che voglio io e non me la fate più un cazzo, di nessuno. Chi lo vuole viene a casa, si porta la parecchio via, funziona bene, in tutto per tutto, basta, non voglio sapere un cazzo. Antone, io ti ho chiesto soltanto, siccome non lo conosco, non posso vedere un'idea. Non ti ho chiesto altro, cazzette vannuta. E non ti sono preso per il culo niente, e lo sai bene. Io non me ne sbatto un cazzo di studio, non hai capito che ne ho tanto per coprire tante persone, non me ne appunto un cazzo. Ma che ti cazzi per questa cazzata, senza il culo, tu e sto cazzo maracchino. E che cazzo, mi fai pure incazzare adesso? No, ce l'ho coperto io, non ti preoccupare, ce l'ho con la cagetta, frega, tu non c'è veramente proprio niente. Sono attaccato da tre giorni io. Veramente da tre giorni, tu la verità non c'è proprio niente, fregate lì, lo sai, se ti avete telefonato te l'avevo anche detto. Quindi sono tre giorni che sono stato attaccato e divorato più che altro, quindi cerca di capirmi, non ce l'ho con te, tranquillo. Non mi conosci un giorno Antonio, che cavolo? E mi conosci che tipo sono, quando mi giorno a cosa ando vino con pareggio e basta, capito? Ma io non penso che non avrei fatto niente di male per dirti, fammi una foto per darmi un'idea. Poi alla fine ho dovuto andare su internet col telefonino a vedere, a voglio vedere che baracchino era, tutto qua. E per le altre persone che ti attaccano, mandene a fanculo, perché vogliono fare di tutto questo delle cose. Di portarti via quell'apparato, mandale a fanculo. Ma tutto per quello, quindi passa a casa, te lo guardi, te lo puffi e te lo puffi anche a casa tua, non c'è nessun problema. Passa a casa, tranquillo Tonin, già lo sai, quindi no, mi fido di te e tu ti fidi di me, quindi a un certo punto fregatene. Passa a casa, non ti preoccupare, anche domani. Fregati di tutti gli altri, no. Non è che sai come sono, destra, sinistra e vanno dritte. Domani sera passa a casa tua, va. Ok, Tonin, sono a casa, non ti preoccupare, vieni te lo prendi. Ce l'hai con me, ce l'hai perché ti ho detto quelle cose. Attore, dimmi. Allora ce l'hai con me perché ti ho detto quelle cose. A me non mi interessa quello. Ma ci mancherebbe, cazzo. Se mi hai detto poco fa, cazzo, scusami, non c'entra niente. Sono cose di giorni prima di adesso. Tranquillo fra. Già lo sai, se c'ho qualcosa con te, piglio e parlo con te, non ti mettere problemi, fregatene. Capo, no, peraltro, capita, io sto facendo un coso, ho detto due parole così, perché quello che ha detto Tonino, quello gli interessava e basta, no, ma va bene, niente, tutto a posto, avanti Gianni. Io vedrò cosa fare, ognuno di voi fa ciò che vuole, cavagava. Oh Fabio, vieni avanti, Fabio. Ah, Gianni, mi senti? Ehi, ti sento, sì, certo che ti sento. Io qui ho trasmissione di San Battista, ho provato pure con l'altro ricevitore, però ho difficoltà a sentirmi. Vabbè, io in realtà stavo facendo così io volevo salutarvi, anche perché Tonino non lo sento e viene un po' male, dai, non fino a quando non ho antenna decente viene male anche, insomma, avere un questo sereno, capito? E tranquilla. Dunque ti saluto. Da dove stiamo modulando? Piacere il questo con te. No, molto, molto ricco, anche se magari c'è qualcosa in mezzo qualche volta, però va bene. E saluto Antonello, saluto anche Tonino, che sicuramente non mi sente. No, io ti sento. Tonino ti sente. Tonino mi sente, io lo sento, buco in Francia cosa. Santiago 3, ma già ti sento. Qua arrivo con lo scala 9.30, Tonino. Vabbè. Ci sentiamo, dai Fabio, se hai deciso di andare via. Se vuoi rimanere, rimani, non c'è problema. Fabio, mi senti adesso? 1, 2, 3, prova. Su Tonino, cosa hai fatto? Mi hai collegato il filo all'antenna. Cosa? Ti sei collegato con un filo alla mia antenna. Ah, quindi sei tu che sei in condizione precaria allora. Capa. Ho un antennino con la quale ti avevi anche ricevuto perché è attaccato a un'altra stazione, è spostato di un paio di metri e ho visto che riuscivo a sentirti anche ieri, basta, ma ti sentivo. Ma adesso ti sento a palla, cosa hai fatto? Ho messo qualche caffettino sotto, dai. Che caffettino? Tu hai preso una mattata di cavo, ti sei collegato alla mia antenna, cioè mi hai acceso tutti i led del ricevitore, tutti, capito? Si è illuminata la stanza adesso. Addirittura. No, ringrazia Pomponio, dai. Perché Antonello ha aggiustato questa cosa qua. Allora, prima hai un led acceso. Adesso che hai parlato ne hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ne ha 13 in tutto. Prima accendevi uno, adesso 13. Hai capito? Addirittura. Sono contento. Ma che zona sei tu? Non è sole, però le antenne... due antennine piccoline e basse, una sulla finestra e una sulla ringhiera. Sto aspettando adesso fra un paio di settimane, penso di salire su e mettere l'antenna come ce l'avevo prima, magari una cosa cambia proprio. Posizione sacrificata, cioè parati davanti e ti sento basso. Io praticamente è la prima volta che ti sento, perché ogni volta dovevo pescare le parole, riuscivo a parlarti, tu mi sentivi, non mi sentivi, insomma. Adesso con questa cosa sei una bomba. Io sono ai cipressi di San Camillo, sono in periferia. Ah, caspita, arrivo anche lì. Bello, chissà quando metto l'antenna sul tetto. Arriverete a bomba qua. Ok, facciamo girare Fabio, dai. Avanti, Antonio. Pomponio. Dimmi tutto. E tu ti riprendi? Sì, sono qua. Sono quello 857 di figurati tu. Sono quello. Ascolta, Tony, da così, aspetta, a così cambia qualcosa in modulazione. E la secondo passaggio sei saturo. Così sono saturo, quindi così sono chiaro. E sei più o meno lì, sei poca roba, differenza, però ti sento. Ok, vabbè, non c'è problema per quello. Lo uso ogni tanto questo apparecchio qua, non è che lo uso molto, la verità. Fabio già l'ha visto, quindi uso poco e niente questa apparato qua, è un quadribanda, quindi l'unico nuovo quadribanda che è, c'è un sacco di funzioni. Ok, Franco, non ti addormentare. No, non mi sto addormentando, volevo dire una cosa a Gianni. Gianni, fai da bravo. Io gli stavo dicendo solo quanti ne accendevo di LED. Quante te ne accendo, Fabio? Capo, in questo momento me ne sta accendendo 12 con uno lampeggiante. Cava, va bene, dai. Se non è guarda, gli fai fare 45. Che, cioè, mi devo allungare il display, non è basta più il display. E a pensare che io pensavo che non arrivavo così bene, diciamo, in zone limitrofe, ti giuro, quando ho messo l'antenna ho detto chissà se mi sentono bene a Sassari. Tony, ma quella segretaria che stai usando, quanti batte? Pochissime, poche, te lo può dire anche Antonello. 300. E Dio ti senta, abbassa un bene. Ovvio, 100. Bravo, e non, ci, non so se li ha pure. E cos'è? 747? Ma cos'è BV131? Ah, BV131 è la 120. E non è che ne ha molti, dai, io. Però, insomma, il suo lavoro lo sta facendo. A voglia. Ah, 120, ti dà 120, no? No, non glieli dà già. E no, c'è un altro meno di uscire, ti dà 120 watt. Poco dopo in base, c'ho anche io mi vivo 131 e non gli dà 120, sarà intorno ai 90 qualcosa. Però se voglio gli do, faccio l'ingresso più alto, mi dà di più, ma mi ruba la radio, allora non l'ho dato, capito? Faccio 3-4 watt. No, dai, massimo 5 watt. È un bombom, un gioiellino davvero, eh. C'è la radio come non alzato, capito? Sì, lo lascio così, lo lascio, dai, già va bene. Sì, guarda, se non sapessi eccetera, non avessi visto, non avremmo compensato. Ma ci siete parlando? Sì, e c'è la Fabio, stava parlando. Ha finito, adesso. Boh, non l'ascolto, scusa, se che mi scusi se non, perché non lo sento, capito? Fabio, ha detto Franco che non ti sente, quindi se ci parla sopra ti chiede scusa, ma non riesce a sentire. Sì, capo, chiedi scusa da parte mia, se per caso ci ho parlato sopra io, chissà quante volte, perché proprio neanche io lo sento, mi muovo un po' l'ago, però è un'agonia che deve finire questa, devo mettere su questa cavolo di antenna qua, veramente. Prendi la decisione, ci vuole capire che ha fatto. No, per salire un problema, qua e là, eccetera, eccetera, insomma, una cosa un po' complessa, io devo salire su deciso, con tutto in mano, con tutte le antenne, che ne ho un paio giustamente, con la carta, eccetera, mi alzo la mattina, la sera devo modulare, non devo neanche tarare niente, capito? Fabio, come ti senti ora? Mi sembra che stai un po' saturando. Ma no, ho messo solo un pregiudicato da tavolo. Stai piccando di brutto, invece prima di più pulito, alla mia radio, ricordate che io sono in condizioni stupide. Troppo, tu come mi ricevi? Perfetto, 9.30, radio bella 5, bella amplificata, piena. È il famoso classico tardo MP3B da tavolo, quello grigio. Bella, ti fa una modulazione spettacolare. Vi ringrazio, mi piace. Veramente, è bellissimo, ce l'ho anch'io quel tardo. Lo sai, Tori, se ti pigli questa apparecchio qui, facciamo una bella cena di sardine. Ma a casa, guarda, sono veramente contento che tu pigli tu l'apparato, per quella cosa la devo pigliare io, la verità sono veramente contento. Mi dice, Sabia, no, ti invito la ruota, no, la sordina che mi viene con il filolo. Sto dicendo, se ti pigli questo apparato qua, mangi qua sardine e siamo a posto, te lo sto dicendo qua. Sono veramente contento, perché te lo meriti, la verità. E con le sardine vai anche al governo, Oh, Cuga, a parte scherzo, a me le femmine non mi piace. Andiamo in Aemega. Ah, che bello qua, voilà. Silenzioso, non è corremme, non è nuda. Bello, squarciato, è bellissimo. La verità è vero, comunque sia. Tranquillo, le femmine, non c'è nessun problema. Erano tutti forti. E si è a posto. Vediamo per se a Fabio lo cuppio. Fabio! Eccomi! Sì, c'è il cuppio che conosco e ci hai messo a metà. Ti arrivo a basso. E beh, Santiago, sei tre, comunque, molto, se sei in queste condizioni precarie che mi hai detto, io sono fuori Sassari, quindi, è ultimo. Il massimo del controllo per me è Santiago 1, Radio 5. No, qua te ne vado 3.5 con esattezza. La radio è 5, per me è chiara, abbastanza pulita. Sì, però da ricordi di vecchia data, no? Ho sempre avuto una modulazione molto forte. Magari condizioni di antenna diverse, eccetera, prove, modifiche. Il più bello che mi hanno fatto era Santiago 1, Radio 5, cioè da incorniciare, capito? Come si dice che Fabio l'antenna grande, stai tranquillo che qua arriva bomba. Capo, non vedo l'ora. Ero anche indeciso sull'antenna, eccetera. Poi un amico di Ossi mi ha messo un tarlo in testa su un dipolo nuovo che è uscito, che ha delle caratteristiche interessanti, però poi alla fine metto una 5 ottavi leggera perché temo il vento qui e vabbè, qualche anno già fa Ioi. Gianni, non ti drumi o non magna. No, sto guardando due cavalli mentre ci accoppiano. Quanto sei porco? Che sono buono, lo siamo mai dentro. Se a me guardi due donne. No, io guardo gli animali, queste cose qua, e tra questi c'erano due cavalli accoppiandosi, ma ve ne era uno che aveva 5 anni. Ma che musica ci prendeva due cavalli che trombano? Lui piace, capito, l'essere animale. Oh, Tony, dimmi tutto. Ma tu dove sei, vicino all'ospedale o più in là? No, più in là. Dove c'era cosa delle galline? Le galline? No, io qua galline non le vedo. No, dove c'era il pollaio una volta, vai, dove vendevano le uova. No, no, io sono un po' più distante, sono all'interno, tra l'altro. È dall'altra parte, ho capito. Comunque, come altura io vedo Sassari, eh. Ehi, cappa. Cappa, conosco un po' la zona, vai. Certo, la zona precisa non la dico mai in frequenza. Fai bene. Comunque, l'importante è tra che mi sentono, poi. Sì, me lo caricherai. Quando vengo io a San Camillo, ti muovo l'importante. Non ho capito. Quando vengo a San Camillo, che vengo ogni tanto, ti metto la portata. Ma dovresti venire di notte, perché io di giorno, Marco, è raro che c'è del baracchino. No, c'è di mattina, Io mi alzo alle 5, 4 e mezzo, però il baracchino blu, ti giuro, guarda, Marco ne accendo. Cioè, sto scherzando. No, io quando vengo solo per andare all'ospedale, basta. Capretto. Ipertensione, purtroppo c'abbiamo anche quella. Ne prendi Antonello. Dimmi tutto, questo no, c'è problema. No, stasera, dimmi chi ha accettato l'ipertensione. Sono Giardino. Sono qua a casa, quindi a un certo punto... Vabbè, allora, stacco questo apparecchio qua, adesso è attacco l'altro, là. Riesco un pochettino meglio, la verità. Ragazzi, adesso l'altro. BPH. Ok, vabbè Fabio, se devi chiudere non c'è problema, ci sentiamo domani mattina, no? Ok. Capo, l'apparecchio è fatto, Adesso, Antone, un'altra radio adesso. Niente, ci siamo domani mattina, ci mettiamo d'accordo. Così ti riporto qui. Torino. Saluti a tutti, buon così quando lo farete, buon riposo. Ciao, mi riprendi, no? Sta parlando Fabio. Torino, è doppio room. Ci sentiamo alle prossime, grazie, è sempre bello cavare con voi. Ok, ciao Fabio, buon così e grazie di subito la tenai, che ti voglio sentire a Pablo Scala qua. Non 144, alle prossime, anche domani ci sentiamo. Avanti Gianni. Ma io già parlato, abbiamo fatto in due. Ecco lo stesso segnale blu. Ascolta Fabio, dai, ti auguro buonanotte, dai, vuoi rientrare a casa. Avanti Alessio, buonanotte anche a te, dai. Avanti Tony. E io ti ho salutato, avanti Franco. Capo, dai. Salutoni a Fabio, che anche se non lo sento, non so se lui mi sente. Ciao anche a Antonello Alessio. Sta attento Antonello, non bruciare la sardina, se no poi Tonino non ne magna. Che sgazzare che sei. Per 500 euro stai facendo scaccare. Vabbè, tranquillo, già io ho intero l'apparato, per quello che è regalato, se vuole c'è per quello, quindi a un certo punto, già io tranquillo, non ti preoccupare. Poi non è che dice un pezzo di bocchetta russo, no, Sagina, boh. Ma Issa, poi Issa va la gola a me. È buona però, grazie, c'è la buccia. A me mi piace tu, Sabina mi piace un bel, sarà buio. Una cascetta me ne mangio. Sì. Che mangia Sabina, mangia? Cucci di pollo, arrosto, capocollo. Opra, dimmi tu. Una volta in un circolo, dove era anche socio, ma tantissimo tempo fa, avevo fatto la sardina, poi la saramugia, e siccome ti mangiamo un beio, qualche strozzo mi ha fatto lo scherzo, mentre la sardina ha messo me il peperoncino, ma Io non mangio manco in pizza, chi continua a mangiare c'è cioè, fucitti. Capo, non mi piace la saldina. No, mi male un po' che saldata, No, io ho mangiato un becco alla volta, ti giuro, guarda, non mi ha fatto nulla. Mi piace, a me piace un becco che... Allora, altro pesce che c'ha molto spina grossa mi piace fastidio. Ma la saldina mangio ben volentieri, però anche se ho pesce azzurro non è che ne mangio più come prima. Adesso mi piace più la fagosa, la patata, quello è il primo posto, visto hai, è cruda, la cozza, vabbè dai. Ascolta, ci vediamo domani mattina, tanto passi a casa, quindi così prendi questo apparecchio qua, così decidi cosa vuoi fare, se no te lo porti a casa, fai quello che vuoi, non c'è problema. Ci vediamo domani mattina. Ok, ciao, buonanotte a tutti, alla prossima, a domani. No, Antonio, di mattina sono troppo impegnato, domani mattina devi anche mio nipote qua. E niente, mi sono un po' di lavoretto perché giustamente con questo cacchio e riandisco dolore ciò e non posso fare niente, quindi sono impegnato tutta la mattina, tanto vengo pomeriggio perché ho i miei impegni domani mattina, capito? E vabbè, facciamo la sera, qual è il problema? Non cambia nulla. Ok, domani pomeriggio dai, ti chiamo quando esco da casa, va bene, buon pomeriggio. Ci sentiamo domani, ciao, avanti Gianni. E io, ciao Liscio, dai, buonanotte, stammi bene. E non ti avvirare a tutti i dici. Mi piacerebbe la verità, guarda, essere calmo, ma a un certo punto ti si gonfiano la verità. Vabbè, ok, ciao, tu dici, vediamo domani sera e così ti do quell'apparecchio, lo provi, eccetera, eccetera, non c'è problema. Ok. Tutto a posto, ciao, a domani, saluto a tutti, buonanotte a chi sta ascoltando e da far culo agli altri. Mentre chi ci ha fatti fa. Spettacolare Antonio, ciao Antonio, buonanotte, buon tutto, ci sentiamo a domani. Venuto il sorriso, visto là. Ok, ciao, ciao. Tale puzza non è cambiata, è caduta a buccia. Per me ce l'ha fermentato la birra, adesso è diventata allegra. Oh, Tony. Eia. Portagli una cambiata scaduta. Oia. Va bene, se c'è più visto, se no era stato peggio. Non mi so, le cambiare, oh. Eia, è un anno. Ma era stato bello. Io mi ricordo che ne ho fatto una per comprarmi la moto, cazzo, quando l'ho saputo mio padre, torna subito indietro con la cambiale, fa la stampare, tieni su, li paga la moto, poi li torniamo in su. Lui non ne voleva sapere, se poi va male la cambiale sono casini. No, erano come adesso, dai, come la finanziaria adesso. E ne ha già fatto cambiare. Fatto quando le cambiali le avevo fatte quando mi ho comprato la 500, l'avevo comprato un milione e mezzo, me la metto ancora. Ma nuova? Ma che nuova, usata la 500 tipo vecchio. Eia, il modello, il primo modello. Io ho avuto la 595 Giannini. No, io c'avevo la L, c'avevo, e l'avevo fatta tutta modificata tipo la Giannini. Io c'avevo la Giannini proprio, c'avevo anche la strumentazione dentro, contagiri, tutto quanto. C'aveva il cambio abbassato, la marmitta grossa, la coppa dell'urio che usciva fuori, e il motore sempre aperto, il cofano del motore se lo scaldava, c'era il radiatore. Ecco, io la mia l'avevo fatta, 650 l'avevo fatta. No. Guarda, è tutta modificata. Avevo messo la stessa coppa che c'avevi tu, che toccava quasi a terra, toccava, poi mi messi la rete e poco lo camminava. La mia faceva 130 nella salita dei Marini, ho superato la Giulia, ve lo ricordo sempre, a 130. Cazzo, mamma mia, lui sui momenti di che cazzo punto arrivai tu. E fatto sta quello che faceva i 9 al litro. Consumava un po' di più, però già rendeva, dai. però la mia era bella, l'avevo fatta bella, l'avevo fatta. Poi alla fine, quando mi ho comprato, me l'avevo preso la 127, quella l'ho regalata a mio figlioccio, era di frutta. Oh yeah. E in mano di altri risultano sempre, ci mettono poco a distruggere. Io c'avevo il volantino nuovo, c'avevo le ruote larghe, il cofano dietro sempre alzato e il radiatore che sbucava. Era una bella macchina, camminava un bel, io mi ricordo da Santa Teresa 10 gui, grazie, ma che lui mi io avevo i cerchi a raggi. No, la mia aveva i cerchi proprio in lega leggera e le ruote larghe. Io avevo buscato i cerchi a raggi e li avevo messo i cerchi a raggi, ma erano belli, però quando finché sono rimasti lucidi. Poi quando la giocata sono diventati rugginosi, e per carità, perché non li puliva più. Va bene, Tony, la riprendi. Invece a me mi è successo nel 1974. Allora la Fiat era di fronte alla caserma Gonzaga, di ancora fisso dove. Ho comprato l'auto 150, mi ricordo ancora che me l'avevano venduta 250.000 lire. Avevo dato 50.000 lire e ho fatto le quattro cambiali da 50.000 lire. Solo che dopo un mese io sono riandato di nuovo alla Fiat, a studi, è più di un mese, ma non mi è arrivata la cambiale da pagare, l'avviso come mai? Ha avuto nome, cognome, diritto da quanto, fruga, eccetera, eccetera, telefonate qua e là e mi ha detto, ascolti, lei è fortunato, è forse troppo fortunato, ma è mica, si tenga la macchina, purtroppo le cambiali sue sono state a Roma, hanno incendiato il locale e si è bruciato tutto. Che la mia regalata. E l'ho pagato 50.000 lire praticamente. Allora io l'ho avuta l'otto 50 lo stesso, io ho avuto 200, allora ho avuto la 500, 227, 127 a benzina e 127 diesel. Poi ho avuto la 1 Fire, sempre nuova, dopo la 1 Fire ho avuto l'Astra Station Vego, poi ho avuto l'appunto 75 cavalli 16 valvole, poi ho avuto ancora un'altra Astra Station Vego nuova, era nuova anche l'altra, che l'avevo comprata nuova anche l'altra, dopo la Station Vego ho comprato questa, la tipo là. Ma io ho fatto un conto e avrò avuto quasi circa 38-40 macchine. Le ho avute quasi tutte. Sì, ma tu le prendevi sempre a seconda mano e le guidavo lui. Ma nuove ne avrò preso 4-5, non di più. Io ne ho comprate tutte le nuove, tranne l'Otto 50 che era di mio suocero e che me l'aveva venuta a 500.000 lire, ma aveva 20.000 km. Era nuova, dice che aveva ancora mai non esibito, non trattava male. Non basta, adesso guarda, voglio prendere una macchinetta di colina, diciamo, fino a quelle manifestazioni dell'altro anno, poi la butterò via per prendere una macchina nuova, come si vede, però sempre piccola, dai, basta con le macchine grosse, però che ci ho detto è un 1.8 turbo diesel, mi ha delle balle piene. Che macchina è, Alfa Romeo? No, è una Ford Focus. Paghi un bel di bollo. La mia 120 cavalli pago quasi 300 euro di bollo. No, paghi in base ai kilowatt, io ho 85 kilowatt e 115 cavalli. In base ai kilowatt paghi già. Kilowatt non sono... Quanto paghi tu? Veramente io dovrei pagare 200 se mi ricordo bene, perché non mi ricordo più. Io pago dopo, dunque, dovevo pagare già una vera, lo pago a fine dicembre e pago 5 euro di mora, ovviamente. E tu hai 2,40 per minuto. È abbastanza anche la tua. La mia è 1.400, 16 valvole, 120 cavalli. Ah, dico un'altra cosa. Se superi i 100 kW, paghi il super bollo, meno male che la mia è 85. Sì, ma in dubbio. E comunque sto pagando anche io un bel, se avessi saputo che pagavo così di bollo non me l'avevo abbigliata. Ma infatti io voglio prendere una Panda, come si vede, con le nuove sono tutte sotto carine. Molti jet, diesel, mi piace un bel. Ehi, vabbè, a me mi piace la macchina anche un po' sportiva. Voluto prendere quella, mi è abbastanza scattato. Gianni, abbiamo una certa età, facciamo la brava, basta correre. No, non corro io. Sono arrivato 198 a gas. Anche io mi sono fatto la... il video a 200, guarda, sto andando al Alghero. È tutta la strada di Alghero tirata. E una volta l'ho andato a due volte sono tirata, poi vado sempre a 80, 90, cerchi di tarato. E infatti qualche persona tu sei tutto manco e non ho più fatto di cazzate, basta. Questo l'ho fatto 3 anni fa, e non è molto più. Avanti Franco. Capo. Per un 1.400 paghi un bel, di bollo. Io pago, c'ho un 1.600 valvole, turbodiesel, e pure pago 172 euro all'anno di bollo. E quanti cavalli c'ha la tua? La mia ne ha 90. E la mia ne ha 120. Ma la cavolo. E un anno fa una macchina così, 120 cavalli, 1.400, che è nuda. Lo so, mi è piaciuta ma l'ho presa, meglio visto che 140, capisci? Ah sì, quello senza dubbio già, però sono macchine che spendi troppo, spendi, dopo un tot di cavalli, però io stavo prendendo 1.400. Dice, poi mio fratello mi ha detto, dice, non la prendere meno di 1.600, e così ho fatto, perché la carrozzeria del 1.400 è uguale a quella del 1.600, è pesante, ha detto, dice, prende la 1.600 e lascia, e si cammina meglio la macchina, infatti è vero. Sì. Consuma anche di più il 1.400 del 1.600, perché è più pesante, fa più sforzo il motore e consuma di più. Sì, lo so già, perché ce l'aveva mio figliuccio uguale alla mia, e 1.400 lui ce l'aveva e consumava molto molto di più, consumava. E per buoni abbuoni di manutenzione un poco di più della mia. No, la mia come consumo non è a gas, vado alla grande. No, io vado a gasolio e micidiali, non consumo un cavolo la mia. Proprio, guarda, ti dico che pongo 20 euro di naffata e me ne dimentichi che c'è due raffi. E specialmente che c'è la paga a 1,69 mi sembra, alla piazzetta. No, non lo so, sono, guarda, senza mettere, avevo fatto il pieno prima di questo casino che c'è del Covid, e a quello sono proprio il naffata, non uso. Io scivo ogni giorno, guarda. No, io non uscivo, usciva mia moglie a fare la spesa sul negozio e basta. E ancora vaggio, vinnaggio un bel di naffata. Io ne ho fatto naffata, allora appena adesso veramente ne ho messo 50 euro e posso fare 600 km. Comunque la mia non consuma un cavolo. No, ma neanche la mia, della verità. Vabbè, il vostro tutto, io ho sempre fatto tutto, gli ho fatto. Tutte le belle manutenzioni, ogni pochi mesi io vado alla porta e mi fanno un check-up tutto generale, mi fa, la porto sempre giù da mio fratello e mi fa tutto. Guarda, io avevo la Golf 1.400 benzina, ti posso dire carrozzeria e interni nuovo di zecca, proprio immacolata. Ma cazzo, consumava che è una cosa, un dio, e tra l'altro a parte quello mi consumava più olio che benzina. Ce l'ha mandato in ora a mano, questo per chiamato mio collega, è perfetta, è buona, però la massa gliene varia. Ma quando consumo le macchine è meglio di tazzini. No, ma la verità, io ho avuto sempre macchine, a parte la 500, la 127, quelle le avevo prese usate, le avevo prese quelle prime due. Poi avevo preso la 1 Fire, come ha detto Gianni poco fa, ho preso la nuova, quella, la 1.100. Poi avevo preso, e due Peugeot ho preso, e la seconda ce l'ho ancora. Gianni, ma tu mi avevi conosciuto con la 112 Abarth? No, non ti ho conosciuto, mi sembra un burbusato. c'è un bel cielo che viene scendendo. Insomma, una macchina camminava come di un limone. Che macchina avevo quando siamo conosciuti? 112 Abarth. 112 Abarth. E camminava pure un bel. Ah, ci avete conosciuto 112 Abarth? Sì, avevo le pisci sotto. E camminava un bel viro. Siamo scesi in una recisa di marini a 180, me lo ricordo sempre. Una volta tornando al produttore in 5, giunto in macchina, mi è stato sopravvissuto, sto andando a 120, mi ha sopravvissuto una 112 Abarth 5 marce, la mia era 4. Mi ha fatto incazzare, ha decelerato e è rimasto in secondo corsia. Un'altra volta sono a Porto Torre, stesso sempre 112 Abarth, ti giuro, non avevo cane con curri, stavo camminando a 80, piano piano, e mi è rimasto, c'era il sicurezza, ma vedi se vuole arrivare lì. Io ho sentito, ho accelerato, è rimasto in seconda corsia. No, aveva un motore, non sai cosa fanno, il vizio di bruciarle quando c'era la pescata, come 127, sia il motore 127 che 112 avevano un difetto. E la mia era un 70 capicchia e poi era paragonabile a un 1003, e allora... Sì, ma camminava un bel, anche il 127 quello che avevo io camminava, avevo io uno spunto, bruciavo a tutti, lo siamo, e allora avevo bisogno di camminare. Ehi, ma ci bisogna andare piano, dai. Ma qui quando avevo le Kawasaki, cavolo, 150, mi ero messo, mi sono fermato a chiesto il filmatico. Wow, una badava. Scatta al verde, fino a seconda, boh, era quasi la fine. E dopo nel G2 deve aver accusato lui, e mi guardava storto, coglione. Senti, ma si cammina, si è preparato qui, cammina un bel, si rifanno la centralina. Ho visto T-Max che sgommava. Se mai c'è un Kawasaki 150 fatto quando la storia Z come era io. Non mi ricordo. Zeta 150 e Z sembra. Poco polino. ZF. No, ZS finale. Ah. Ho capito. Kawasaki. Io mi ricordo quando sono entrato, settembre 74, sono entrato per pochi mesi, poi ho cambiato il terminativo, mi sono detto, Torino San Nicola, anche il vicino a un uomo. Ah, e figurati se avete come anche Kawasaki. Poi sono Kawasaki, dato, mi metto la testa sopra la mano. Avanti, Fra. Capo, ma ti hai messo il nominativo in confronto alla volta che ci avevi. Sì, perché voi il Kawasaki l'ho avuto, ne ho avuto due. Insomma, è sempre rilevato a una moto, oppure c'è qualcuno che la fa per una macchina, oppure per tanti nominativi, da anche per gli animali ho sentito. Ma dirò che anche qualche collega che mi conosce da vecchio bene, andata, a me mi chiamano tutti attori, mi chiamano veramente. Il mio nome è battesimo Antonio, ma Tonino diminutivo, mi chiamo tutti i familiari e amici di infanzia, tutti Tonino. Dirò che anche al lavoro con la chiudura che mi conosce in chiedata, Tonino Kawasaki. Ehi capo, vabbè, Tonino e Antonio, diciamo che è lì, perché c'ho anche mio cognato, io che lo chiamiamo Tonino, però si chiama Antonio. Sì, diminutivo di Antonio, Tonino. E infatti è così. Va bene, dai signori, io ho visto l'orologio e mi sono sorrendo di luci. Ci sentiamo, dai. Buon proseguo, buon tutto, ce la ascoltiamo a domani oppure alle prossimine. Io non è che ci sono tutti i giorni, ma ogni tanto entro. Ciao proseguo, io mi sono andato da Drumi. Ciao Tonino, ciao Franco, buonanotte a tutti e due, ciao a domani. Ok. E mi guardo anche un po' il TV comunque. Ciao Franco, piacere, un bel quartiere tranquillo e ciao anche Gianni. Ci sentiamo domani, buon tempo 44. Ciao a tutti, buonanotte, anche gli ascoltatori. Buonanotte. Ok, ciao, buonanotte a tutti. Ciao.